serve un comportamento adeguato alla crisi, l'appello di Napolitano mentre l'Ecofin discute nuove misure di sostegno. Inchiesta Tarantini, legali del premier Berlusconi non andrà dai PM di Napoli. Libia e ribelli a Bani Walid, concluso l'assedio alla roccaforte ribelle. Troppo anziani per avere un figlio, il Tribunale dei Minori di Torino gli toglie la bimba. Oggi lo sfogo dei genitori, siamo discriminati. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Occorre una riflessione sulle scelte degli anni 70 e 80. Il mondo è cambiato e in un certo senso tutto va rimesso in discussione. Parole del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in queste ore in viaggio in Romania. Il presidente ha sollecitato comportamenti adeguati all'esigenza, dice, di fronteggiare la crisi finanziaria. Sentiamolo. Probabilmente abbiamo sottovalutato il fatto che a un dato momento questo peso poteva diventare un macigno che ostruisse la nostra strada. Dobbiamo fare in modo che da questa riflessione nascano comportamenti adeguati alle prove che abbiamo dinanzi. E allora andiamo in Romania con il presidente Napolitano, cioè Dino Pesole. Buongiorno. Buongiorno Anna. Dino, qual è il messaggio in queste ore dell'inquilino del Quirinale e a chi è rivolto? Beh, è un messaggio, direi, prima di tutto di sano realismo, è inutile nasconderlo, ha detto molto chiaramente, siamo di fronte a un momento molto critico che non riguarda ovviamente solo l'Italia, ma in particolare l'Italia, come abbiamo visto è stato necessario varare due manovre correttive e dunque ci sono davanti a noi sfide che vanno affrontate. È un messaggio al tempo stesso, direi, però anche di sostanziale ottimismo, perché il Presidente dice che alla fine il Paese ce la può fare, ha le energie per farcelo, a patto però che appunto, come dicevate, si riesca a superare comportamenti e atteggiamenti che non hanno più ragione d'essere. Ecco Dino, questa volta è un messaggio più interno che è rivolto agli altri, insomma. Direi proprio di sì, nel senso che questo è un messaggio che è rivolto in primo luogo, direi, alla classe politica, ma non solo, anche alle imprese, ai sindacati, cioè ognuno deve fare la sua parte e soprattutto mi sembra questo accenno molto interessante al fatto che non esistono più rendite di posizione, non possiamo più ragionare come se fossimo in un mondo di 20 anni fa o 30 anni fa, perché quel mondo lì non esiste più. Ovviamente il Presidente è fortemente preoccupato, qui in Romania ha lanciato, come è giusto che sia, un messaggio di ottimismo, anche perché in Italia e fuori dall'Italia soprattutto il Presidente rappresenta l'unità nazionale. È preoccupato per l'evolvere della situazione economica, ma al tempo stesso ritiene che ci siano degli elementi di forza nel Paese che in qualche modo vadano anche al di là della contingenza che stiamo vivendo. E tra questi ha citato il dinamismo, ad esempio, degli imprenditori. Qui in Romania ci sono 30.000 imprese italiane, che è un record mondiale, quindi questo ad esempio è un chiaro messaggio di ottimismo. Grazie a Dino Pesole, allora in Romania. E intanto in queste ore però si guarda anche alla Polonia, dove sono riuniti 17 ministri dell'economia e delle finanze dell'area euro, dovranno decidere le prossime mosse e allora sentiamo anche qual è l'umore dei mercati da Valeria De Rosa. Buongiorno Anna, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, una seduta piuttosto nervosa quella dei mercati europei oggi, molto volatile, l'apertura era stata in rialzo, poi una brusca frenata, i listini sono andati in negativo a metà mattinata, in questo momento sono tutti positivi con Milano che guadagna l'1,35% per il FTSE MIB, sul FTSE All Share l'1,31%, in progresso anche Parigi che guadagna mezzo punto, Francoforte all'1,74%, quindi allunga il passo. Che cosa sta succedendo appunto in Europa? Si guarda con preoccupazione a quanto avverrà oggi e domani all'Ecofin. Questa mattina è iniziato con una riunione dell'Eurogruppo che vaglierà gli aggiustamenti di bilancio di Grecia, Irlanda e Portogallo e l'assegnazione in arrivo per molte economie dell'euro. Ovviamente uno sguardo approfondito anche alla manovra per dell'Italia. Un Ecofin senza precedenti perché c'è la presenza straordinaria del segretario al tesoro americano Tim Geithner a segnalare proprio la gravità della situazione, perché Washington è sempre più preoccupata per quanto sta accadendo in Europa. i mercati risentono anche dei futures sui listini americani che sono negativi, e per quanto riguarda l'Italia aleggia anche lo spettro di un taglio del rating da parte di Moody's che potrebbe arrivare nel corso del weekend. Dobbiamo però dire che oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel è tornata a rassicurare sull'euro, su quanto la Germania voglia ovviamente la tenuta dell'euro in quanto un paese esportatore, quindi ovviamente fa comodo alla Germania avere un euro forte, quindi questo dovrebbe rassicurare quantomeno sulla tenuta, sulla volontà della tenuta da parte della Germania per tutta l'area euro. Ed è tutto. Grazie Valeria De Rosa. Riprende intanto il mercato dell'auto in Europa, è cresciuto del 7,8% ad agosto, non è andata bene però alla Fiat che ha venduto il 7,6% in meno rispetto a un anno prima. E intanto la manovra entra in vigore, da domani scatteranno gli aumenti, costeranno di più proprio le auto ma anche i carburanti e beni di largo consumo come scarpe e abbigliamento. L'aumento dell'IVA è infatti uno degli effetti della manovra che sarà immediato nelle nostre tasche. Allora io saluto anche Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, cosa succede da domani? Da domani scatta appunto, come dicevi tu, l'aumento dell'IVA dal 20 al 21%. Allora qui bisogna fare un po' di così memorandum. Non significa che tutti i beni che sono in vendita, tutti i servizi che sono offerti aumentino dal 20 al 21%. Per capirci ed essere molto brevi, l'IVA ha tre aliquote in Italia, una al 4, una al 10 e una da domani al 21, e al 20 fino alla mezzanotte di stasera diventa 21. Noi sappiamo quali sono i beni al 10, quali sono i beni al 4, tutti quelli che non sono in queste due tabelle sono al 20. Allora, tu ricordavi l'abbigliamento, le scarpe e in generale quelli che non sono prodotti alimentari stanno solitamente al 20%. L'esclusione, con l'esclusione appunto importante dei beni alimentari. Poi i servizi che stanno abitualmente al 20% e quindi dal 20% passeranno da domani al 21%. Attenzione perché l'IVA è un'imposta solo apparentemente semplice e quindi ci sono molteplici casi che possono presentarsi, una cosa viene effettuata oggi ma la fattura viene fatta domani e così via. Allora noi stiamo spiegando già da alcuni giorni e continuiamo domani sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole, lunedì con le guide del Sole 24 Ore a spiegare tutti i vari casi che possono esserci. Ad esempio, voi comprate un computer oggi, ma se la fattura ve la consegnano successivamente, ci scontate l'IVA del 20 o del 21%? E un CD come cambia e quando cambia? Queste sono le domande. E allora, visto che ci aspetta anche un fine settimana magari di acquisti, grazie Mauro Meazza. L'appuntamento, come dicevamo, sul Sole 24 Ore anche con gli speciali in questi giorni. E intanto la Lega in queste ore è riunita sul Monviso per la consueta tre giorni che si concluderà domenica a Venezia. Da spiegare ai sindaci leghisti, molti in rivolta, c'è proprio la manovra. A parlare per tutti questa mattina Roberto Calderoli. Sembra che questi attacchi, che sono assolutamente evidenti, stringono ancora più forte l'asse della coalizione, quindi andiamo avanti così, cercando di rendere più sostenibile la manovra e adesso di trovare la crescita, perché dopo l'equilibrio di bilancio il passo successivo deve essere la crescita. Sul piano politico c'è anche un'altra discussione accesa riguardo alle intercettazioni. Personalmente preferisco occuparmi di riforme costituzionali, ma se proprio dobbiamo discutere di intercettazioni è meglio fare un provvedimento piuttosto che parlarne, ha detto per la Lega sempre Calderoli. E intanto i legali di Berlusconi hanno fatto sapere che il Premier non si presenterà ai PM di Napoli che indagano per il presunto ricatto ai suoi danni da parte di Giampiero Tarantini, ma si discute anche dell'inchiesta di Bari. I magistrati li chiamano rapporti di tipo affaristico e citano la protezione civile e Finmeccanica, anche se la società nega. Dai guadagni con le protesi nella sanità pugliese puntava a commesse milionarie Giampaolo Tarantini e per questo, secondo i magistrati di Bari, trovava, selezionava e pagava le donne, una trentina per Silvio Berlusconi, il suo tramite verso affari a molti zero. È questo lo scenario ultimo tracciato tra le pieghe di conversazioni agli atti dell'inchiesta su feste, volti più o meno famosi e incarichi rischi per sé e per gli altri. Scenario che è ben presente anche sullo sfondo del filone napoletano del caso Tarantini, la presunta estorsione da 800.000 euro ai danni del premier. Berlusconi allo stato non si presenta ai PM partenopei, ha confermato uno dei suoi difensori, Piero Longo, chiamando in causa le difformità interpretative tra procura e difesa. La possibilità cioè che il premier, anche se testimone, possa essere ascoltato con un difensore. Quella che invece già è stata ascoltata è la voce di Berlusconi in una conversazione agli atti con un altro personaggio centrale, l'ex direttore dell'Avanti, Walter Lavitola, che gli ricorda del generale della Guardia di Finanza, Emilio Spaziante. Ti ricorda qual era la faccenda di quel generale? Sì, che lui si proponeva, no? Per fare una mediazione e lui fare il numero due. Noi si rischia il caso che da persone proprio amiche, rischiamo che gli diventiamo antipatici. Lo devi chiamare subito. Da Napoli a Bari un filo unico lega i due filoni e sarebbero alcune centinaia le conversazioni del premier direttamente con Tarantini, collegato anche ad alcune delle olgettine milanesi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E naturalmente si discute a Bari. Nella città c'è disorientamento, dobbiamo recuperare la reputazione. Sullo scandalo Tarantini, così l'opinione di Alessandro Laterza, della storica casa editrice barese, l'ha incontrato sempre Raffaella Calandra. È vissuto molto male questa curiosa viraggio della reputazione della città, che da essere considerata da sempre una città molto vivace, improvvisamente si trova invece in questa posizione un po' imbarazzante di essere identificata come luogo degli scandali. Siamo qui nel centro praticamente di Bari. Secondo lei il timore in questo momento di Bari è di essere marchiata appunto come una novella sodoma? Il problema di Bari è che deve in qualche maniera sostenere la propria reputazione. Adesso lo sforzo deve essere quello di chiarire le cose e poi chiarire quello che noi siamo, e non siamo certo Tarantini e tutta la corte celeste. C'è chi vede in questo forme nuove di corruzione. Sono oggettivamente forme nuove di corruzione. Ormai l'unica dimensione in cui la politica si esprime in maniera significativa è quella dell'intermediazione di risorse. E anche l'intervista alla Terza andrà in onda domani nella puntata di A Ciascuno il Suo, domani alle 8.30, che sarà dedicata alla corruzione. Nasce un nuovo filone di indagine sulla strage Borsellino, riguarderà il colossale depistaggio, come lo ha definito il procuratore Sergio Lari, che venne organizzato dai servizi segreti. La procura di Caltanissetta ha deciso di stralciare la posizione di 3 poliziotti che facevano parte della squadra guidata dal questore Arnaldo La Barbera, ora indagati per calunnia. In Libia i ribelli sono entrati questa mattina nella città di Bani Walid, feudo delle forze lealiste, assediata da settimane. Decine di mezzi blindati marciano ora verso la roccaforte di Sirte, dove è in corso una dura battaglia. Ma parliamo ora di TV. Dopo il no a Serena Dandini, la Rai presenta invece un altro classico d'autunno, quelli che è il calcio. E allora sentiamo Giacomo Segantini. Sì, buongiorno, grandi novità in arrivo per quelli che il calcio, a partire dalla figura di punta, la conduttrice, che dopo l'addio di Simona Ventura sarà Victoria Cabello. L'ex VJ di MTV, già autrice, è promossa alla conduzione della 18ª edizione, che promette di filtrare attraverso il suo tipico stile di conduzione già visto in Victor Victoria, molto ironico e pungente. Al suo fianco i comici Virginia Raffaele e Ubaldo Pantani, già visti su MTV e Mai dire gol. Tra le gag che ci proporranno, un finto TG e una sitcom. Oltre ovviamente alle imitazioni. La prima farà la parte di un'originale poetessa, mentre il secondo imiterà il nostro Oscar Giannino. Al commento tecnico di nuovo Massimo Caputi, una delle colonne del programma, che manterrà la sua postazione fissa sulla partita. Inoltre tanti ospiti. Nella prima puntata sono previsti Federica Pellegrini e Beppe Fiorello. E poi anche ospiti non famosi, tifosi e tanti collegamenti. E una novità, le dirette dalle case dei nuovi italiani, gli stranieri che in Italia si sono appassionati di calcio. Un'ultima nota a margine, tutti i partecipanti alla conferenza stampa di presentazione oggi a Milano hanno espresso rammarico per Serena Dandini. Abbiamo sentito del voto 5-4, ha detto il trio Medusa, speriamo che sia l'andata. E per ora è tutto. Le 13:17 minuti, le notizie di oggi di GR24, serve un comportamento adeguato alla crisi, l'appello di Napolitano, mentre l'Ecofin discute nuove misure di sostegno. Inchiesta Tarantini, legali del premier, Berlusconi non andrà dai PM di Napoli. Libia e ribelli a Bani Walid, concluso l'assedio alla roccaforte ribelle, ora marciano su Sirte. Troppo anziani per avere un figlio, il Tribunale dei Minori di Torino gli toglie la bimba, oggi lo sfogo dei genitori. La dottoressa della CTU che ci ha seguiti, a un certo punto del colloquio con lei ha detto: io non avrei mai consentito una maternità alla vostra età. Questo non è scritto da nessuna parte, poi l'ha riferito. Quindi questo è un gravissimo pregiudizio nei nostri confronti. Si è sfogato così, l'avete sentito questa mattina, il padre della bimba in affidamento a Torino da quando è nata, è ora adottabile. La vicenda, il Tribunale dei Minori ha dichiarato adottabile appunto una bimba di un anno e mezzo, togliendole ai genitori naturali perché troppo anziani. Il padre ha 70 anni, la madre 57. La bimba è nata grazie alla fecondazione artificiale all'estero e per decisione della magistratura minorile è in affido da quando aveva un mese. La discussione ne è ovviamente accesa, per noi il commento di Alberto Pellai. Genitori con l'età dei nonni. A questo punto la legge interviene e dichiara il loro figlio adottabile. L'onnipotenza di un mondo adulto che si prende ciò che vuole, anche quando si tratta di andare ai limiti dell'impossibile, ha avuto uno stop con l'intervento di un giudice che sottrae il figlio ai genitori anziani e lo dichiara adottabile. Il caso della sentenza shock che ha coinvolto i genitori di Mirabello ci deve far riflettere. Ciò che si può fare grazie alla scienza corrisponde a ciò che non si dovrebbe fare secondo ogni logica umana. E allora dovremmo domandarci in questo caso di chi è la responsabilità. E molti si chiederanno perché un bambino con mamma 57enne e papà 70enne e da soccorrere i genitori, mentre un altro con mamma cantante 54enne e senza papà è stato sulle copertine di tutti i giornali. Che cosa ci fa dire in un caso no e nell'altro sì? Noi esperti ne sappiamo ben poco. Da sempre si dice che le regole ai bambini servono per diventare grandi. Ora però questi bambini sono nelle mani di adulti che non hanno regole. Diamoci delle regole. Forse è arrivato il momento di dirsi chiaramente che non si può fare tutto ciò che si vuole e che l'erbavoglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Spuntano in nuove immagini, emergono nuove testimonianze sugli episodi di nonnismo e violenza nella caserma dei Nox della polizia di Roma. Sul caso indaga la procura, che ha deciso di processare due poliziotti accusati di aver picchiato un loro collega. Anche il capo della polizia ha disposto un'indagine interna. A chiedere di fare chiarezza è anche il SILP CGL, il sindacato di polizia al quale si era rivolto l'agente. Andrea Viali ha sentito il segretario provinciale del sindacato Ivano Cardellini. Avete avuto altre segnalazioni di episodi di nonnismo e di violenze all'interno di questa caserma, voi come sindacato? Qualche voce c'era, però è chiaro, partendo dal presupposto che da episodi che possono essere simpatici, cioè legati all'interno di un corpo, a quello che è emerso, siamo veramente su un altro pianeta. Qui la cosa è effettivamente molto più grave. Noi come organizzazione ci siamo presi l'impegno di seguire questa vicenda, di difendere il collega che ha avuto coraggio a far emergere questo tipo di situazioni, perché è impensabile ad oggi un ufficio di polizia, insomma, che è teatro di queste situazioni. Però ripeto, l'episodio secondo noi si va a circoscrivere in un solo gruppo che sta rovinando e infangando l'immagine del Nox. Cioè non va generalizzata la cosa. Ancora alla cronaca, un automobilista ubriaco ha investito la notte scorsa all'esterno di un bar a Verona. Ferite 8 persone, una di loro è in prognosi riservata. Tra i feriti ci sono anche il conducente dell'auto e la moglie che sedeva accanto a lui. Andiamo all'estero, 10 anni dopo l'ultimo governo, la sinistra vince in Danimarca. Ha vinto promettendo più tasse e più stato sociale, oltre a una nuova politica sul fronte dell'immigrazione. Quando Helle Thorning-Schmidt parla di momento storico celebrando la sua vittoria nella notte di Copenaghen, non è chiaro se si riferisce al tasso record di partecipazione, che ha toccato l'87,7%, o al fatto di essere la prima donna danese a diventare premier. Intanto l'alleanza liberal-conservatrice riconosce l'esito del voto, fa gli auguri ma non si sente sconfitta. Cara Elle, dice il premier uscente, ti cedo le chiavi dell'ufficio, abbine cura e ricorda che è solo un prestito. Il premier uscente Rasmussen, che resta comunque leader del partito di maggioranza relativa, paga il lungo percorso compiuto con il partito antimmigrati di PPE, che ha anche portato Copenaghen al recente recesso unilaterale dagli obblighi di Schengen in materia di libera circolazione. Helen Thorning-Schmidt, 44enne, definita la Gucci rossa dai suoi detrattori che le rinfacciano avvenenza, abiti e cura negli accessori, arriva alla guida del governo partendo da Strasburgo, dove fino al 2004 è stata parlamentare. Per governare dovrà ora contare su altre donne che guidano la sinistra radicale, il movimento rosso-verde, in un vero blocco femminile che questo sì non ha precedenti in Europa. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Il Belise ha stanziato 15.000 euro per il restauro delle fontane di Piazza Navona a Roma. Il piccolo stato dell'America centrale, inserito nella lista grigia dei paradisi fiscali, si renderà partecipe del recupero della Fontana del Moro, danneggiata, ricorderete, dal 52enne romano Mauro Maggi. Barbara D'Amico ha chiesto all'ambasciatore del Belise in Italia, Nunzio Alfred D'Angeri, le ragioni di questa decisione. È un gesto di cooperazione di un piccolo paese come il Belise, ha deciso di non fare la festa che si dovrebbe fare tutti gli anni per la nostra indipendenza il 21 settembre e di offrire alla città di Roma questo gesto per restaurare questo monumento. Il bando era di 10.000 euro, noi ne abbiamo offerti 15.000. Questo gesto di grande solidarietà comunque dello Stato nei confronti di Roma può essere letto in un certo senso come un modo anche per riabilitare dalla lista grigia. L'immagine del Belise, certo. Noi non siamo un paradiso fiscale, abbiamo ritenuto che un atto vandalico di questo genere, che deve essere deplorato assolutamente, si debba fare un qualcosa per la città che ci ospita. E allora, ora la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. 215.000 medici in Italia e secondo l'Agenzia delle Entrate 87 milioni di euro di imposte non pagate in un anno e mezzo. La Toscana ha deciso di dire basta e ha organizzato una contromossa che si sta dimostrando vincente. La regione ha eliminato la possibilità per i medici dipendenti pubblici di ricorrere alla cosiddetta intramoenia allargata, cioè per visite private devono utilizzare strutture pubbliche. Lo spiega Mario Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. La Regione Toscana ha deciso con un'apposita delibera di imporre praticamente a tutti i medici che svolgevano attività di intramenia, che oggi possono effettuarla anche presso i propri studi privati, di svolgere invece obbligatoriamente presso strutture messe a disposizione dall'ASL. Non solo, le tariffe sono pubbliche per ogni soggetto e i pagamenti, così come le prenotazioni, sono centralizzate presso appunto le strutture sanitarie. E questo ha fatto emergere a valle del processo amministrativo un incremento addirittura del 30% dei compensi dichiarati dai soggetti che appunto svolgono attività di intramenia e svolgevano rispetto a quanto lo svolgevano prima. Una prassi, quella della Regione Toscana, che finora nessun'altra regione ha imitato, ma non è mai troppo tardi per farlo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non si studierà più storia dell'arte in molte scuole italiane e c'è un appello del FAI. Il Fondo Ambiente Italiano chiede che l'insegnamento della storia dell'arte resti nelle scuole italiane, già scomparsa infatti nel biennio del turistico, negli istituti professionali per la grafica e la moda, nel biennio dei licei classico e scientifico. Il presidente del FAI, Ilaria Borletti Buitoni, al microfono di Maria Piera Ceci. Ma io la trovo una notizia drammatica, quella che riguarda l'insegnamento. Il nostro appello è che le istituzioni e la politica si sveglino finalmente e capiscano che questo paese può cambiare solo se non ci sono tagli all'educazione e alla cultura, perché da lì parte la consapevolezza di quello che siamo e di quello che potremmo essere. Non si tratta solo di salvare dei monumenti, si tratta di ritornare a capire qual è la vocazione e l'identità di questo paese. Quindi questi tagli sono drammatici, sono incivili, sono inopportuni e sono degni di un paese che sta sprofondando sempre di più in una voragine dalla quale è difficile vedere l'uscita. E GR24 termina qui. Fabio Cantadori in regia, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24 naturalmente vi aspetta con tutte le notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.